Non ci sono più le mezze stagioni. Stavo ascoltando con interesse questa pubblicità Progresso, l'avete sentita, è molto bella, bisogna dire, insomma, una nota di merito per il Ministero delle Pari Opportunità. Ma a proposito delle che non ci sono più le mezze stagioni, l'avevo accennato già un po' di tempo fa, adesso lo confermo, così diciamo piuttosto scorata, posso dire, perché qualche tempo fa ho questa ammirazione spasmodica, veramente incondizionata per i tassisti, no? Perché a me manca completamente il senso dell'orientamento, molte altre qualità, ma è proprio un tassello che nel mio cervello manca. Invece adesso, dei tassisti, no? Dicevo, avevo questa ammirazione perché tu entravi, è come il jukebox che metti la moneta e scegli la canzone, parte la canzone. Tu dicevi una via qualsiasi, a Milano come a Roma, cioè, diciamo le grandi metropoli e così anche le altre città, pam, partivano, senza neanche star lì, dunque, fammi pensare dov'è. Adesso sapete che hanno tutti il navigatore. Io quando salgo in macchina su un taxi rimango così male, e poi li vedi anche quando girano, tu sei magari sulla tua macchina, lo vedi che hanno sempre questo televisorino piccino, no? Sopra il vetro. Ma come? Ma anche loro? Ma se non, neanche loro sanno più orientarsi, ma allora quindi proprio siamo in una società completamente disorientata. Non so se c'è qualche tassista, donna, uomo all'ascolto, poi mi confermerà, ma intanto partiamo con la trasmissione come sempre fino alle 15 insieme. Ed è un modo, lo sapete, per fare il bilancio insieme a voi ascoltatrici e ascoltatori dei fatti della settimana. Sicuramente c'è qualcosa che vi è rimasto in mente, qualche opinione che avete voglia di esprimere, qualche precisazione che volete fare su qualche fatto. Le notizie sono sempre infinite, a vostra scelta. Il numero verde è 800 24 00 24. Lo ripeto, il numero verde è 800 24 00 24 per esprimere in libertà le vostre riflessioni sulle notizie della settimana. E naturalmente non posso fare a meno di invitare anche in questa puntata il mio opinionista estemporaneo, ogni volta diverso. E oggi, signore e signori, chi sarà? Giorgio Forattini. Che onore, Giorgio. Buongiorno, caro Roberto. Eccoci qua. Il vignettista satirico più celebre, più noto d'Italia. E che idea, che punto di vista curioso, no? Quello di uno che è abituato a disegnare le cose, la realtà, a riderci sopra. Mi interesserà oggi, Giorgio, sapere quindi tu, man mano, sui fatti che magari ti propongo io, cose che avrai in mente tu e altre, le ascoltatrici e gli ascoltatori, qual è il tuo punto di vista? Tu sei abituato con la matita, vediamo adesso con la voce che dici. Chiedimi quello che vuoi. Ma non, tutto tuo. No. Non vorrei approfittare, sei attento a quello che dici. Ma comunque ho qui tra le mani il tuo nuovo libro, ne ha scritti tantissimi, Giorgio Forattini, con la sua matita, talmente divertito tanto l'Italia, illustrato il nostro paese, i beni, i mali, eccetera, eccetera. L'ultimo, pubblicato da Mondadori, è Satiromantico, perché adesso hai preso anche un po' questa vena un po' più romantica, magari con il tempo ti sei un po' addolcito, Giorgio? Ma io mi sono sempre battuto perché la vita italiana ritorni a un certo romanticismo. Noi siamo, grazie anche alla politica e grazie anche a quello che insegnano nelle scuole fino adesso, è il mancanza di l'incultura e il romanticismo. Ecco, manca il romanticismo. La nostra è un'opera, è un'epoca, specialmente in Italia, molto incolta e poco romantica. Io sono d'accordo con te, però anche in questo libro ci dai giù con la politica. Sì, ma infatti sulla copertina ci sono io satiro, si chiama Satiromantico il libro, sono io satiro che disegno ammiccando con le zampe da capra e con le corna dei satiri, disegno con una penna d'oca un'Italia nuda completamente. Quindi c'è sia il lato satirico che il satiromantico, perché io sono un uomo un po' voyeuristico, anche un po' in linea con questi tempi. Io anche sono innamorato questa Italia nuda. Dell'Italia, ecco, dirò che amo molto il mio paese, sono felice di quando si fa onore come se l'è fatto nel passato. Sono molto innamorata anch'io, caro Giorgio Forattini, anche se poi ne parleremo, se voglio, anche con gli ascoltatori di questa lettera di Pierluigi Celli, che tanto scalpore ha creato, no? Questa lettera di invito al figlio appena laureato di andarsene dall'Italia, perché lui in questa lettera su Repubblica elencava i vari mali che a onor del vero sono oggettivi, poi che invece sia meglio rimanere, cercare di cambiare insieme il paese, anche se può sembrare utopistico, questa è un'altra cosa, però insomma, ci sono le cose oggettive. Come faccio io, che vivo un po' a Milano, Roma, ecco, e un po' a Parigi. È un po' a Parigi, questo quindi è il compromesso. Scappo, però poi c'ho bisogno di tornare subito in Italia, perché l'Italia è la mia patria e io amo moltissimo questo paese, anche se in questo momento non merita il mio amore, il mio affetto. Poi ci dirà Giorgio, sì, certo. Molto interessante capire anche cosa si cela dietro queste parole messe un po' lì. Allora, prima di sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori, c'è già Driss da Roma e poi c'è Giulio da Pistoia, proprio da Pistoia. Insomma, sentiremo, le notizie sono tantissime, il numero verde è sempre 800 24 0024, ma a questo punto quasi inizialmente, insomma, riuscire anche ad avere dei punti di vista un po' più lontani, ecco, per esempio da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Questa volta, tanto per cambiare, da quassù vorrei volgere il telescopio marziano verso la Germania e non sempre solo l'Italia. Vediamo un po'. Si parla tanto di matrimoni forzati, ancora oggi, no? Nelle culture repressive, oscurantiste. E poi, nella postmoderna, civilissima Germania, la giovine neoministra della famiglia si ritrova praticamente costretta a sposarsi con il suo compagno. Mezza Germania dice infatti che questo matrimonio sa da fare. È così, pure Angela Merkel la pensa così, altrimenti obiettano. Perché mai metterla a capo del Ministero della Famiglia se una famiglia nel senso tradizionale ella non ce l'ha? Un'idea un po' bislacca, a dire il vero. Sarebbe come dire che chi detiene il Ministero della Salute, per esempio, debba essere medico in corsia. O per essere a capo della difesa si debba essere generale dietro la collina, eccetera, eccetera. Va detto che il Ministero della Ministra tedesca della Famiglia ha però anche la delega agli anziani. È probabile allora che, avendo ella solo 32 anni, per essere più adatta al ruolo, più credibile, le diano una bella mano di bianco sui capelli e le appioppino qualche ruga qua e là. Bah. Ma proseguendo l'osservazione da quassù del globo terracqueo, sbirciamo anche verso naturalmente la penisola italica, dove pare confermato, dopo il caso di qualche giorno fa e un altro in questi giorni, che uno dei reati con la pena più certa e gli esiti più fatali in Italia sia quello di rubare asciugamani e zaini sulla spiaggia. Al carcere non sfuggi e a volte neanche alla morte. In questi giorni ne è perito un altro, effettivamente in Gattabuia, che di questo turpe reato si era macchiato. Intanto il Censis fotografa l'italica popolazione, come fa annualmente, e scopre che una famiglia su tre in Italia arriva a stento a fine mese. Vive praticamente, come si dice sulla terra, a pane e cipolle. Ma qui scatta la buona notizia. Nella contea inglese di Somerset, in Gran Bretagna, dei ricercatori che studiano la longevità dei vecchietti del luogo hanno scoperto che il loro segreto di lunga vita è mangiare una cipolla al giorno. Come si dice appunto sulla terra, non tutti i mali dunque vengono per nuocere. Insieme a Giorgio Forattini cominciamo ad addentrarci un po' nelle varie regioni, nelle varie città, con le ascoltatrici, gli ascoltatori e le loro riflessioni. Dicevo, nel frattempo adesso è caduto un ascoltatore, invece è comparsa Marilena da Frosinone, queste volte giochi illusionistici qua dello schermo. Marilena? Buongiorno. Marilena? Mi sente? Sì, sono Marilena. Marilena, però sento anche la mia voce, com'è possibile? Hai la radio accesa? Forse perché no, ho la viva voce, mi fermo un attimo perché sono in macchina. Sì, sì, grazie. Un attimo solo, eh? Sì. Mi sente? Ti sento, Marilena, ti ecco. Sento. Prego. Niente, vuole la cosa che mi ha colpito, io sono d'accordo con Forattini, con lei, amo la mia Italia, per l'amor di Dio, ma in questo periodo la amo un pochino meno perché stanno accadendo tante di quelle cose che veramente mi sconvolgono. Sì, la prima sì. È che i politici pensano di avere il dono dell'onnipotenza. Questa. Comunque, adesso al di là di questo, la cosa che mi sconvolge molto, come si fa a dar credito e a dare ampio spazio ad un pentito che ha alle spalle 40 morti, 40 morti che ha ucciso lui. Stai parlando di Spatuzza e del processo in questi giorni a Torino contro Marcello Dell'Utri. Ma io adesso, al di là che si tratti di Berlusconi, io sono di centrodestra, ma al di là che si tratti di Berlusconi, o poteva essere D'Alema, o poteva essere uno di sinistra, è la stessa cosa. Cioè, come si fa? Una persona che dovrebbe essere esclusivamente punita, qui si dà solamente, invece si dà molto credito a questa persona, ma com'è possibile? Ma Marilena, probabilmente forse perché si tratta di Berlusconi, non lo so, Ma comunque come si fa a dar credito a una persona del genere? Io sono veramente, provo tanto sgomento e sono amareggiata. Senti Marilena, naturalmente appunto come si è detto in questi giorni saranno poi i giudici a valutare, certamente molte perplessità, molti dubbi, le credenziali tra virgolette di questo personaggio li creano. Cosa fanno i giudici? Dovrebbero prima ascoltarli loro, poi renderla così pubblica la cosa? Ma insomma non ho capito, prima dovrebbero trarre le conclusioni loro e esprimere una loro sentenza e poi renderla pubblica, perché qui prima si fa il processo, facciamo il processo noi tutti, no? E poi lo fanno i giudici. Non lo so, ma sai, sbaglio, diciamo ma che comunque un po' tutti i processi, come è stato anche quello per il delitto di Meredith Kercher eccetera, no? C'è l'informazione in un paese e quindi le cose comunque i cittadini vengono messi al corrente, poi man mano ci sono gli sviluppi e poi si vedrà, no? La giustizia farà il suo corso. Marilena, ti ringrazio e sentirei Driss, dico bene, Driss da Roma? Sì, buongiorno. Tu tutti con la radio accesa, Driss, puoi spegnerla per favore? L'ho spenta. Poi la riaccendi ovviamente per continuare a sentire se ti va. Allora, Driss, che nome è il tuo? Complimenti per la radio, che ieri dico subito, il mio figlio è nato il 4 di ottobre del 99. Ma allora tu ti ricordi del 4 ottobre del 99, il nostro giorno di nascita, e da lì ero in diretta sin dal primo giorno anch'io, Driss. Un fidelissimo allora. Senti, allora intanto io parlando prima del navigatore, io faccio il noleggiatore, diciamo una parallela, insomma linea parallela del taxi, insomma qui a Roma. Noleggi, cioè nel senso... Noleggio con conducente. Noleggio con taxi, con... Tu sei tu il conducente stesso che ti noleggi? No. Vabbè, facciamo insomma servizio taxi, solamente che è un taxi privato, cioè non col tassametro. Parallelo, ho capito. Esatto. Sì. Allora io penso che un tassinaro che se porta il navigatore in macchina sarebbe meglio che vada insomma a fare il pizzicarolo. Vero, il pizzicarolo, senza offendere nessuno, però servire senz'altro per andare fuori Roma, perché certo io non è che posso conoscere Milano perché ho una certo città. Tornando invece alla notizia, diciamo, che mi ha colpito, se posso dire, sono diciamo due. Sì, la prima non capisco perché l'ultima ascoltatrice, come Emilio Fede, insomma diventano così tanto nervose, tanto arrabbiate quando, insomma, ma perché, diciamo, la mafia, diciamo, in generale viene, insomma, tra parentesi battuta, grazie comunque a tante pentiti, no? Beh, Falcone iniziato sicuramente con il corso dei pentiti per contrastare la mafia. Perché quelle, diciamo, li dobbiamo credere, a cui sono... Lasciamo, come ha detto lei, giustamente, il giudice a fare il suo lavoro, poi dopo, per carità... Saranno pure tutte bufalate che sta dicendo questo, non lo metto in dubbio. Come purtroppo, e mi dispiace se poi dopo quello che dice, mi dispiace veramente se poi sia vero poi dopo alla fine. E questa è una cosa, Driss. L'altra invece ha detto che due notizie? E l'altra, la notizia, oddio, già non mi ricordo più. Perché eri intento a orientarti nella città, è chiaro, uno può tenere in mente tutte le strade, pure le domande che hai, le riflessioni che ha da fare. Driss, ci fermiamo qui allora? Va bene. No, veramente, mi interessa veramente dire più che altro quella prima, però vabbè, è andata così. Quella del processo, dicevi, o quella del navigatore? No, del processo, no, quell'altra, ma adesso purtroppo non me la ricordo più, vabbè, come non detto. Beh, se ti venisse in mente mi richiami, va bene? 800-24-00-24. Grazie mille e buona giornata. Grazie a te, buon orientamento, meno male che c'è qualcuno ancora che si ricorda le strade. Giorgio Forattini, tu ti orienti bene, sì? Per le strade? Sì. Io vivo in taxi perché non mi oriento assolutamente da nessuna parte, pur essendo vissuto molti anni sia a Roma che a Milano. Dappertutto ho vissuto molti anni anche a Napoli, in tutte le città. Difficile mi oriento meglio a Parigi, perché Parigi è una città che è stata disegnata in modo un po' più ordinato, più schematico, con strade dritte eccetera, cose, e quindi lì faccio delle grandi camminate e mi oriento benissimo. Giorgio, di queste notizie che hai sentito o di altre che hai in mente, avevi voglia di fare un commento, un'osservazione? Ma sai, io mi esprimo soprattutto con vignette. Adesso mi è venuto in mente una vignetta che farò con un mafioso con la coppola e la lupara che porta un enorme bottiglione. Sì. Dall'altra parte è un giudice che regge questo bottiglione, sono in due, che portano il regalo di Natale a Palazzo Chigi a Berlusconi. Sulla bottiglia c'è scritto acido. perché questo spatuzza non solo ammassava la gente, ma la scioglieva anche. Sì, sì, il bambino, dicevamo, sì. No, ho trovato veramente penoso e anche vergognoso che su tutte le televisioni, in diretta, ci fosse questo spatuzza che oltretutto non mostrava il suo volto, che diceva delle cose gravissime. Lei pensi all'estero, che cosa, che deve fare delle cose gravissime, non provate, delle cose che potevano essere, come diceva l'ascoltatrice prima, potevano essere prima dibattute e poi rese pubbliche. Però succede così un po' per tutti i grossi processi, no? Quelli di grandissima portata. Ma anche le intercettazioni telefoniche che appaiono sui giornali, insomma, addirittura le intercettazioni, addirittura i ricatti fatti ai politici sulla loro vita sessuale, insomma, io la trovo assurdo. Infatti non ho mai fatto vignette in questo senso. Assolutamente no, mi rifiuto. Giorgio, sei romantico a tutti i costi. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi per dibattere insieme in libertà sulle notizie della settimana, fare un bilancio il sabato, visto che si chiude appunto questa settimana. Il numero verde è 800 24 00 24. Chiedo di avere ancora un po' di pazienza agli ascoltatori che stanno arrivando, telefonate frenetiche, che Giorgio De Luca ai telefoni fa la diaca lì, insomma, della situazione per prendere tutte le telefonate. Volevo anche tra poco farvi il solito disperato riassunto di alcune delle notizie della settimana. Poi vorrei fare anche una smentita che mi arriva da Telethon. Sapete che non la scorsa puntata, la settimana prima, un ascoltatore, a proposito di notizie della settimana, ne aveva tirata fuori una che a me in quel momento era sconosciuta. Lui era malato di SLA, della sclerosi laterale amiotrofica, e diceva: sono scandalizzato perché su un giornale, se non sbaglio il Fatto Quotidiano, aveva letto che delle risorse, dei soldi raccolti da Telethon per la ricerca scientifica, per le malattie rare eccetera, erano stati deviati verso Alitalia. E poi io non ho saputo commentare, perché appunto avevo detto non ne ho notizie, quindi non so bene che cosa dire su questa cosa. Allora mi ha contattato l'ufficio stampa di Telethon dicendo che assolutamente, insomma, anche se in questi giorni, diceva, da alcuni organi di informazione è stato riportato il fatto che sono stati fondi sottratti alla ricerca Telethon e destinati al salvataggio dell'Italia, la fondazione Telethon tiene a precisare che questo non corrisponde al vero e che mai i soldi raccolti sono stati impiegati per finalità diverse da quelle della ricerca scientifica sulle malattie genetiche. E ricordano che poi c'è la nuova maratona TV di Telethon, come tutti gli anni, l'11, 12 e 13 dicembre. Questa appunto la smentita che è arrivata da parte di Telethon. Vorrei sentire Giuliano D'Arieti. Pronto? Giuliano. Buongiorno. Buongiorno a te, Giuliano. Allora, la notizia, diciamo, che non è la più importante. No, però, no, non deve essere per forza la più importante, ci mancherebbe. La notizia che mi ha impressionato in questi giorni, sì, è quella del Nobi Day. Ah sì, che è partito proprio 20 minuti fa, se non sbaglio, a Roma, la manifestazione, sì, per chiedere le dimissioni di Berlusconi. Sì, sì, a Roma. Sì, sì. Mm. La cosa che, la sintesi che ho fatto su questa notizia, ascoltando pure qualche sera fa Cruciani, sì, è che secondo me, o almeno, insomma, non, forse non tutti, comunque io quelli che partecipano al Nobi Day li vedo come dei tronisti mancati, quelli della trasmissione, tronisti mancati, sì, tra le 5 uomini e donne, sì. Come il tronista raggiunge una posizione senza una, diciamo, senza una gavetta artistica, e raggiunge una posizione, diciamo così, di pseudo artista che fa poi le partecipazioni eccetera, sì, così io vedo questi manifestanti, per l'amor di Dio, con tutta la loro dignità, però cercare di raggiungere una posizione di soggetto politico, di trattativa politica, senza impegnarsi o nell'impossibilità, per l'amor del cielo, non è che lo facciano per svogliatezza, magari pure per mancanza d'occasione, però senza il corrispondente impegno nella vita politica. Beh, non è detto, come fai a conoscerli personalmente, sì, adesso, al di là di tutto, Giuliano, di condividere cielo, o meno. Infatti, però l'impressione che ne ricavo è questa, come se al di fuori della battaglia politica ci sia la soluzione per la nostra democrazia. Io mi sono reso conto che la nostra democrazia non si difende da sola, si difende lavorandoci dentro, e che personaggi che possono dare fastidio non possono essere combattuti su un punto di vista personale, ma con gli strumenti che la democrazia sviluppa e devono essere difesi, mantenuti. Ma diciamo, Giuliano, sì, che c'è ravviso appunto delle questioni oggettive in quello che dice, anche se è vero, al di là di contro chi sia la manifestazione, poteva essere contro chiunque altro, anche questa è democrazia, no? Il fatto che la gente possa scendere in piazza. Però è la democrazia delle piazze, e questa cosa mi spaventa. Mi spaventa perché se si arriva alla democrazia delle piazze, che voglio dire, questa non è l'unica volta, anche... Beh, insomma, la storia, soprattutto anche, occidentale, europea, anche, no? Anche i meeting di Rimini che si fanno ogni anno e dove lì autorevoli persone fanno dei convegni in cui si parla di politica, anche quella potrebbe essere una politica delle piazze, no? Non so se mi spiego. Sì, però questa... anche la base, no? La società civile, credo che abbia il diritto nel bene e nel male, sbagliando o nel giusto. Ma sì. No, infatti, per l'amor del cielo, non è che li voglio tacitare, però mi spaventa, perché poi significa, cioè potrebbe significare o potrebbe indurre qualcuno a dire innanzitutto conquistiamo la piazza, che la conquista politica è fatta, ma qui poi vengono stravolte le regole della democrazia, di una testa un voto, del parlare ciascuno di noi, non so se mi spiego. È vero che è difficile, potrebbe essere pure vero che è difficile impegnarsi in politica, per l'amor del cielo, anzi a volte è anche impossibile se ci sono ulteriori rapporti che insomma impediscono. Sì. Però la soluzione può essere, come dico Alberto Sordi, che prendeva in giro il finto americano nel film in cui americaneggiava, no? E immaginava di parlare inglese, nessuno lo capiva, per l'amor del cielo. Così il finto artista che comunque raggiunge la soglia di notorietà, allora in questo caso si raggiunge una soglia di notorietà, cioè ci si fa vedere contrari a qualcosa, detto per inciso, si dà benzina al motore del proprio concorrente nel dire sì, ma tu proponi invece di contestare, insomma, no? Allora ci si fa vedere, ma il risultato poi è sostenibile. Cioè, paradossalmente, se Berlusconi si dimettesse sulla base del No B-Day, che cosa sarà la democrazia italiana il giorno dopo? Giuliano, guarda, adesso poi sentiamo subito Frattini, Giorgio Frattini, cosa ha da dire su questo. Non credo proprio che neanche nelle loro intenzioni o nelle loro aspettative ci sia che effettivamente poi il Presidente del Consiglio si dimetta veramente. Però è un modo di dimostrare come c'è un grande consenso nel Paese nei confronti di Berlusconi. C'è anche questa parte della società che invece evidentemente lo contrasta e vorrebbe che si dimettesse. È un voler dimostrare questa volontà e questo umore diffuso, almeno tra quelli che ci saranno in piazza. Leggevo prima 350.000 dovrebbero essere, poi sentiremo alla fine della manifestazione quali sono. Giorgio, tu cosa ne pensi? Giorgio Forattini. Ma io sono contrario alle manifestazioni di piazza. Potrei essere favorevole alle manifestazioni di piazza a favore di qualcuno, atto politico, di qualche per l'aborto, per il divorzio, come sono state queste manifestazioni, per rivendicare dei diritti del cittadino. Ma queste cose di piazza non mi piacciono, non mi sono mai piaciute, perché sanno tanto di giacobinismo. Io sono un liberale e quindi non ammetto la forca, i forcaioli, i giustizialisti, eccetera. Infatti io faccio sempre Di Pietro, lo descrivo sempre, che è uno dei promotori di questa cosa, faccio sempre vestito a Mussolini, come una volta facevo Craxi, ecco, Mussolini che agita le piazze contro il nemico. Devo dire che quando ci sono state manifestazioni come quelle anche di scioperi per cose, io le capisco un po' di più, ecco, queste cose in piazza mi distruggono la bellezza della mia città, che è Roma, perché ogni volta che vado a Roma ci vado una volta al mese, eccetera, mi trovo le piazze, le cose di questa bella città invasa da gente che con le forche, perché non dimentichiamo che in queste manifestazioni contrarie, per esempio Berlusconi in questo caso, si vedono anche dei pupazzi impiccati per i piedi a mo' di piazzare Loreto del personaggio da abbattere. Sentiamo Roberto da Roma, sempre all'800240024, poi c'è Giulio da Pistoia e poi c'è Ferdinando, vi prego davvero di scusarmi, di avere pazienza. Roberto. Buongiorno. Buongiorno Roberto. Io parlo in antitesi a quel signore che ha chiamato tronisti quelli che vanno a questa manifestazione, tra l'altro che è stata convocata via internet, eccetera, senza solo Di Pietro ci ha messo il cappello sopra, vorrei dire a questo signore che i tronisti di solito, basta vederli in giro dalla trasmissione Amici, eccetera, sono tutti di destra, tutti. E questo non lo so. Il tronista che abbiamo si chiama Silvio Berlusconi. Questa è la mia opinione, non so cosa ne pensa lei. Roberto, ti ringrazio e abbiamo avuto allora due pareri completamente contrastanti su questa manifestazione di Roma che dicevo è iniziata intorno alle 14, il No B-Day, No Berlusconi Day, che dove si attendono molte persone, poi ci sarà alla fine il bilancio perché chiedono le dimissioni appunto del Presidente del Consiglio. Però prima della prossima pausa volevo elencarvi velocissimamente alcune delle notizie della settimana, prendo la bombola d'ossigeno e ci provo, sapete è arrivata proprio ieri notte, poco dopo mezzanotte, la sentenza per il processo di Perugia, il delitto della studentessa Meredith Kercher avvenuto 2 anni fa. Ebbene, i due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, sono stati condannati, lei a 26 anni, lui a 25. Poi l'altro grosso processo che tiene appunto il fiato sospeso un po' di tutta l'Italia a carico del senatore Marcello Dell'Utri, condannato in primo grado a 9 anni per concorso esterno in un'associazione mafiosa, dove il pentito Spatuzza, il pentito di mafia, appunto ha fatto i nomi, ha citato i nomi di Berlusconi e Dell'Utri come referenti della mafia negli anni 90. E poi il famoso fuori onda di Fini, no? Che tante polemiche, tanto scompiglio ha creato nel PDL in questi giorni, in cui lui diceva, appunto pensando a telecamere spente, a un giudice vicino a lui, il Berlusconi confonde il suo consenso con l'immunità. E poi il No B-Day, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato gli ascoltatori. La finanziaria 2010, che sarà di 8,9 miliardi, è stato presentato ieri sera il maxi emendamento, saltano le ronde, stop ai rimborsi per azioni e obbligazioni all'Italia, quindi la somma aumenta di quasi 1 miliardo rispetto a quella prevista. L'asilo di Pistoia, l'avete sentito tutti che cosa è successo, e le due maestre colpevoli di maltrattamenti, è stato confermato l'arresto. Il referendum in Svizzera sui minareti, sapete che il 57,6% degli svizzeri ha deciso, insomma, che è contraria alla costruzione di minareti. E poi questa notizia naturalmente ha avuto la sua eco anche in Italia con il vario dibattito, polemiche eccetera. Vittorio Feltri che ha ammesso ieri che la ricostruzione dei fatti sulla vicenda Boffo era infondata, non stavano esattamente così le cose, e in realtà dice era dignitoso, è stato dignitoso Boffo, e poi non c'erano questioni omosessuali nella sua vicenda. Questo lo trovo un po' buffo, come se uno sia o meno colpevole o non colpevole se va con una persona dello stesso sesso oppure no. Ecco, questo mi sembra un po' particolare. Poi l'avviso di garanzia che è arrivato a Roberto Formigoni, presidente della regione Lombardia, per aver sforato appunto i limiti di inquinamento a Milano, e poi anche avvisi di garanzia Letizia Moratti, la sindaca, e il presidente della provincia Guido Podestà. Sono arrivati in Italia 2 dei detenuti di Guantanamo secondo un accordo internazionale che l'Italia ha preso con gli Stati Uniti. In Afghanistan arriveranno più soldati americani, ma Obama chiede anche agli alleati, insomma, di contribuire. L'Italia si è fatta avanti. In Somalia le tragedie non mancano mai, una strage, una festa di laureati, molte persone ferite, uccise. Anche in Pakistan un altro attentato, in Sicilia, per tornare in Italia, la maggioranza di centrodestra che è in crisi, la disoccupazione a ottobre in Italia oltre i 2 milioni, questa fotografia poi del Censis che dice che quella italiana è una società che ha resistito, che sta resistendo abbastanza alla recessione, puntando sui suoi punti di forza che sono la flessibilità delle piccole aziende, il sostegno delle famiglie che sono anche risparmiatrici, il posto fisso, banche legate al territorio, però sono anche poi queste le sue debolezze, l'immobilità sociale per esempio. I mondiali di calcio, sapete che l'Italia esordirà il 14 giugno contro il Paraguay, il ponte dell'Immacolata, molti che già sono partiti oggi, che sono in macchina ad ascoltare. E poi voglio darvi prima di questa pausa anche una buona notizia. Ruanda, paese che ha conosciuto nel 94 veramente una violenza, un'efferatezza quasi inimmaginabile, no? In pochi giorni questa strage incredibile di persone fatte a fette col macete eccetera eccetera. Beh, è il primo paese, il primo stato al mondo che si è liberato ufficialmente delle mine antiuomo, che sono disseminate in tanti paesi del mondo e fanno vittime anche finite le guerre civili e le guerre di altro tipo. Eccoci ancora insieme, Roberta Giordano con voi sino alle 15 per parlare insieme, tornare a riflettere sui fatti di questa settimana. C'è il mio opinionista estemporaneo di oggi, che è Giorgio Forattini, che ha appena pubblicato con Mondadori il suo ennesimo libro di vignette gustosissime, satiromantico, che è sempre molto satirico ma è pure romantico. Giorgio Forattini così ci ha disvelato anche questo aspetto della sua anima, che comunque si poteva anche naturalmente dedurre. E al numero verde torno subito, 800 24 00 24 con Giulio da Pistoia, a quale chiedo veramente umilmente scusa. Giulio, credo che tu sia da un po' al telefono, prego. Tanto avevo tempo, era alla grazie, come sei gentile. Grazie. Stai andando via per il ponte? No, io lavoro. Si lavora? Ho visto dell'altra volta che lavora per la catena dei supermercati. Ah, bene Giulio, bene. Sì, lavoriamo insieme. Allora ecco. Giulio, che mi dici? Che ti dico, è una brutta pagina quella dell'asilo di Pistoia, bruttissima pagina. Io credo che per un paese che si dichiara civile, avanzato, siede al tavolo del G8, questa sia una brutta pagina, è un indecoroso. Spero che quelle due persone ricevano una punizione esemplare, giustamente proporzionata a quello che hanno combinato, che serva di lezione a non commettere nei confronti addirittura di chi è veramente, in questo caso qui, indifeso, no? Insomma, perché ora da dieci mesi a 3 anni non vedo come si possono difendere di fronte a dei soprusi di questo genere. È vergognoso tutto questo, una pagina che ci tocca molto da vicino, nel momento in cui nella politica litiga per qualsiasi, per il fuori onda, per quello, per quell'altro, una litigiosità che proprio francamente a me ha stufato parecchio, tanto che, se mi consenti brevemente. Certo, hai tanto aspettato tu, sì. Vabbè, che c'entra, stanno aspettando anche gli altri. È passata, secondo me, inosservata forse, la notizia che ha dato qualche TG, mi sembra 2 o 3 sere fa, se non mi sbaglio, sì, è stata tolta l'ultima tendopoli in Abruzzo, se non sbaglio. Non saprei dirtelo in questo momento, se ecco, è proprio così. Se mi ricordo bene, è stata tolta l'ultima tendopoli in Abruzzo. Ora, non so chi è che l'aveva messa su, indipendentemente da chi era, diciamo, no, che gestiva questa tendopoli, se governo, Croce Rossa. Ma credo che fosse tutto, volontà, insomma, un'interazione tra protezione civile. Ecco, Croce Rossa, questo, sì. Ora, non sto a dare meriti a quello o a quell'altro, per carità. Una notizia positiva, secondo me è passata un po' troppo inosservata. Sarebbe stato il caso di dargli un pochino più di risalto, perché insomma, tutto sommato, hanno tolto l'ultima tendopoli, quindi queste persone sono riuscite in qualche maniera ad andare a abitare. Sì, ogni tanto bisognerebbe, anche da parte di media più veloci, anche come la radio, la televisione, non soltanto i giornali, le inchieste eccetera, un po' monitorare la situazione e capire a che punto sono. Comunque Giulio, ti ringrazio di averne parlato, volevi dire altro? Due brevissimi commenti. Allora, sono contento francamente per la condanna che hanno avuto a Perugia quei due ragazzi, anche perché tutte le volte mi infastidiva, tutte le volte che li inquadravano ridevano sempre questi due ragazzi, hanno sempre sorriso, sempre con il sorriso sulla labbra. Francamente, se io mi trovassi in aula di tribunale processato per un omicidio non riderei così tanto. E poi chiudiamo in bellezza con un po' di ironia, prima di sentirci domani sera con storielle e storiacce. È inevitabile che l'Italia... Ci sarà Mario Biondi, tra l'altro, domani con me dalle 19 alle 19.30. Bene, è inevitabile che l'Italia non dia una mano, come non dare una mano a un premio Nobel per aiutarlo in Iraq con altri 30.000 soldati. Insomma, mi sembra un po' scortese, no? Giulio, ti ringrazio. A voi. E allora buona domani, grazie Giulio, buona continuazione. C'è Ferdinando. Ferdinando da dove, Ferdinando? Sì. Cittadino del mondo? No. Di dove sei? Sono di Varese, ma adesso sono a Lucca. Sì. Ascolti, io volevo dire a proposito del processo di Torino. Sì. Fare un invito ai magistrati di occupare meno la scena e di lavorare senza pubblicizzare molto quello che si sta facendo, perché non so se avete visto ieri la televisione, la Corte non cercava altro che attenzione delle telecamere. Ma questo non lo so, siamo noi giornalisti che comunque accediamo perché riteniamo di avere il diritto e il dovere di informare. Chi fa il magistrato deve stare un po' più schiscina, come si dice a Milano. non pubblicizzare troppo determinate cose, determinate. Lì c'è stata troppa scena mediatica ieri. Tutto questo. Grazie, ti ringrazio Ferdinando. Grazie. E Giorgio Forattini, volevo chiederti, tra le altre cose, poi continuiamo a sentire anche le notizie delle ascoltatrici e degli ascoltatori al numero verde che ricordo 800 24 00 24, cosa ne pensi della proposta del ministro Brunetta di inserire nei titoli di coda dei programmi TV della RAI i compensi dei conduttori? Che ne pensi? Sono d'accordissimo con Brunetta. Questa gente. Verrebbero fuori delle belle. So. No, perché diventa addirittura il potere della televisione, diventa un po' esagerato, un po' sopra le righe, voglio dire. Come diceva appunto quell'ascoltatore, anche i giudici cercano disperatamente la vetrina televisiva, la vetrina mediatica, che non è una cosa che attiene molto a una giustizia liberale. Io sono un liberale e quindi sono contro effettivamente i processi pubblici, i processi popolari. Angelo da Roma. Sì, Roberta. Sì, Angelo, eccoci qua. Buonasera, finalmente. Buongiorno. Buonasera, finalmente, quel dopo, che preferisci. Buona giornata. Dopo due tentativi, penso, l'altro sabato stavo in coda alla fine, è finito il programma e non sono riuscito a parlare. Oh, scusami Angelo, ce l'abbiamo fatta allora questa volta. Sì. Io sono un tuo ammiratore, tra l'altro la notte ritorno, sto in Sicilia perché faccio musicista e la sera alle 2 di notte mi capita di sentire il tuo, anzi, lo aspetto il telegiornale detto da te alla radio. Che uomo di gusto, devo dire, grazie Angelo. Tante volte in replica. Io volevo fare due osservazioni e capisco cosa vuol dire stare anche a aspettare le telefonate, quindi cerco di essere veloce. No, vi ringrazio, siete tutti civilissimi, davvero, grazie, grande allora, gentilezza. Allora, io voglio dire due cose. Sì. Io l'ho votato, il mio voto dove va a finire? A sinistra. Io non voglio assolutamente che questi politici prendano il voto da noi e poi lo fanno andare a centro, a sinistra. Io l'ho votato per un discorso programmatico fatto e con Silvio Berlusconi e con tutto il partito della libertà. Quindi il signor Fini dovrebbe fare la persona politica, seria, rispettare l'elettorato e non facesse giochi di testa, perché comunque a me che il mio voto vada a finire un'altra parte mi darebbe un fastidio immenso. Perché secondo te Angelo Fini non è più di destra? Secondo me io l'ho votato perché c'era un certo contratto, presumo, con Berlusconi, no? Comunque adesso sta facendo, non si sa, poi tra l'altro mi preoccupa perché non riesco a capirlo. Angelo, fammi un esempio, no? Lo hai votato, non hai votato Berlusconi, tu hai votato perché eri in accordo con Berlusconi, ma se no avresti votato Berlusconi se ti fosse piaciuto di più. Hai votato Fini. Che cos'è prima ti convinceva di Fini, qualcosa che diceva, delle sue posizioni, adesso no? Fammi un esempio. Ma io, indipendentemente da Fini, purtroppo ognuno di noi ha, come si dice, politicamente magari degli agganci, amici... un parente. E che vuoi, a seconda di come votano gli amici, no? No, nel senso che fin da bambino ho visto certi politici che frequentavano casa mia e col tempo... La tua formazione è stata quella. Certo, ho visto che erano persone in gamba, ma poi con l'unificazione del partito, ma Fini non lo sapeva quello che andava facendo, cioè se poi a me mi costringe di votarlo Berlusconi, perché se fanno un partito unico, io però ho sempre votato Alleanza Nazionale, cioè, ma proprio per un discorso di mio padre, di mio zio, da generazioni che diamo il voto a loro. E adesso non si sa, non vorrei veramente, si parla di Bottezemolo, si parla di Rutelli, no, assolutamente no, va in contrasto con le idee, tra l'altro non rispetterebbe quel ceto politico che comunque gli ha dato i voti per un discorso di destra, logico. Un'altra cosa poi ti lascio perché capisco che insomma il Di Pietro la deve smettere, perché Berlusconi o chi per lui se l'è guadagnati quei voti, se l'è guadagnato il governo sempre per il discorso dell'elettorato, sta lì perché ce l'abbiamo mandato noi, quindi è inutile che va in piazza a protestare, quando tocca a lui governerà, quando l'elettorato lo voterà a Di Pietro e a chi per lui, questi che internet, andranno al governo. Perché devono chiedere le dimissioni di Berlusconi? E noi l'abbiamo... Chiarissimo. cioè, lui che fa tanto illegittimo, no? Di Pietro parla di legittimità delle cose. Una cosa più legittima di questa, che Berlusconi ha preso i voti ed è giusto che debba governare, ma che vanno a fare in piazza, mi scusi se uso questo termine, i cretini, perché non si dimetterà mai ed è giusto che sia così. Angelo, ti ringrazio. Adesso mi dice Paolo Corleone, giustamente la parte tecnica, guarda che dobbiamo aggiornare chi sta viaggiando. Ti ringrazio, Angelo. Eccoci, abbiamo ancora più o meno un po' meno di un quarto d'ora. Roberta Giordano cercherà di velocizzarsi sempre più. Giorgio Forattini, sempre oggi il mio opinionista estemporaneo, che ha pubblicato con Mondadori il suo nuovo libro satiromantico, il vignettista satirico più famoso d'Italia. Giorgio, leggevo ieri per esempio sul Corriere, no, l'editoriale di Angelo Panebianco, che diceva Fini rischia di diventare un po' l'icona della sinistra, cioè un po' una situazione paradossale. Cosa ne pensi tu? Beh, anch'io la penso come pane bianco, perché effettivamente queste continue svolte di direzioni, eccetera, sempre più verso sinistra di Fini, non dimentichiamo il passato di Fini, eccetera. Fini è stato un uomo politico di valore, un capo di partito di valore, che a un certo punto era completamente isolato perché faceva parte del movimento sociale, che era stato il movimento di Almirante, eccetera, che era pieno di nostalgici del fascismo, eccetera, e cose. E lui a un certo punto cosa ha fatto? È stato sdoganato da Berlusconi. Ecco, è stato sdoganato da Berlusconi ed è andato praticamente. E poi c'è stata la svolta di Fiuggi, eccetera, tutto quanto, eccetera. Lui a un certo punto ha abiurato il suo passato. Ora, che non dico che lui abbia avuto un passato, perché lui è nato nel 53, quindi non ha avuto certo un passato fascista, però i suoi elettori, come diceva quello lì, quell'ascoltatore, gli ha dato il voto in quanto uomo di destra. Adesso questo poi deve anche al buon Berlusconi di essere diventato presidente della Camera, praticamente nel 2003 lui cercò, 2004 non mi ricordo, lui cercò di rovesciare il primo governo Berlusconi, o il secondo non mi ricordo, eccetera, per questi contrasti con Tremonti. Ecco, bisognerebbe che chi ha un voto, come diceva quel lettore lì, il voto non deve essere poi portato altrove. Chi dà il voto a un politico lo dà perché la politica è quello che lui rappresenta in politica, non deve poi ritrovarsi ad aver dato il voto o all'estrema sinistra o all'estrema destra, capisci? Giorgio, allora adesso diamo la parola a Sandra da Rimini. Adesso devo un po' velocizzare con le telefonate degli ascoltatori, chiedo scusa, il tempo poi comincia a correre. Sandra, a te la parola. Ah, buonasera, sarò molto veloce. Grazie. Dunque, mi soffermo sulla notizia di cui nessuno ha parlato in questi giorni, vale a dire la morte di un lavoratore senegalese nel nord Italia. È di ieri, sì, la notizia, sì, ucciso dal suo... Ucciso dal datore di lavoro che chiedeva gli arretrati. Ecco, questo è lo specchio della nostra cara Italia. Io poi faccio parte di un'associazione qui a Rimini che si interessa a informare i lavoratori stagionali provenienti dall'est europeo, che qui nella nostra riviera sono impiegati presso le strutture alberghiere. E adesso, non fino a questo punto ovviamente, però di violenze anche psicologiche, ricatti sessuali, specialmente riferite alle donne, no? Che lavorano presso gli alberghi, insomma, di queste informazioni purtroppo le abbiamo avute dalle testimonianze appunto delle stesse lavoratrici. E quindi insomma sono cose che, cioè, bene o male insomma conosco, ecco, quindi. Sandra, ti ringrazio allora di aver ricordato anche questa notizia, naturalmente è importantissima, notizia di cronaca appunto, ricordava del lavoratore senegalese ucciso dal suo datore di lavoro perché era andato lì a rivendicare 3 mesi, se non sbaglio, di stipendio. Grazie Sandra, adesso il momento che bisogna dedicare invece a un'analisi linguistica, anche sociologica, anche umanistica, come possiamo dire, di una delle parole che hanno caratterizzato, o dei concetti insomma, di questa settimana. E direi di andare sul termine rischio. fissa, no? Anche Napolitano, anche la politica nostra da un po' di tempo, anche se ho seguito in Argentina una seduta parlamentare, si tiravano scarpe, pugni, sedie, di tutto. Da noi ancora, insomma, le sedie stanno al loro posto. Valeria Della Valle, della Sapienza di Roma, la mia docente preferita. Eccomi. A te Valeria, che ci dici di rissa? Eccomi, che cosa vi dico di rissa? Beh, insomma, leggendo i titoli, rissa sfiorata a Montecitorio, rissa sulle riforme, al Senato e rissa e via dicendo. E allora, la parola è antica, insomma, già i latini avevano rixam, rissa la usava come parola, intendo già Dante, quindi un paese un po' di rissosi, diciamo. Storia vecchia. Tradizionalmente esisteva anche il verbo rissare, cioè litigare violentemente, ma ecco, il verbo si è andato perdendo, non lo usiamo più, lo usavano ancora De Amicis e Pascoli. Ma se lo usassimo noi oggi sarebbe sbagliato? Come dire, no, bisognerebbe farlo però con consapevolezza, no? Se qualcuno poi ci guardasse in maniera strana dovremmo essere prontissimi a spiegare da dove viene, ecco, perché stiamo usando un verbo di uso antico che oggi oramai non usa più nessuno perché è proprio letterario. A proposito di questo e a proposito del romanticismo invocato dal da Giorgio Forattini, da Forattini, ecco, vorrei ripristinare, sempre per chiudere in maniera un po' più lieta, un valore, un significato di rissa che oggi è un po' dimenticato. Ah, ce n'è uno lieto, sentiamo. Ce n'è un altro, sì, abbastanza lieto, quello che allude non alla rissa violenta e quasi fisica, ma al conflitto interiore dei sentimenti e delle passioni. Cito questo significato perché un poeta che oggi è molto dimenticato, Carducci, nella famosa Davanti San Guido, che tutti un tempo studiavamo a scuola, insomma, ci sono dei versi nei quali i famosi cipressetti di Boldri, rivolgendosi al poeta, gli dicono: ben lo sappiamo, come dentro al tuo petto eterne risse ardon, che tu né sai né puoi lenire. Allora, queste risse interiori, in fondo, non sono male, no? Come anche la parola è bella. E allora ripristiniamo le risse interiori, le risse di stampo carducciano, e cerchiamo di fare a meno delle risse violente che ci circondano. Grazie Valeria Della Valle. Tanto romanticismo ci ha concesso in chiusura Valeria Della Valle. E allora chiedo scusa intanto alle ascoltatrici e ascoltatori ancora in linea, ci risentiamo sabato prossimo, e se volete domani invece alle 19, se volete ascoltare con me Mario Biondi, chiedo a Giorgio Forattini o una vignetta di chiusura, un commento di chiusura. Giorgio, come ci saluti? Ma io vi saluto contestando un po' il titolo della vostra trasmissione, che l'ho dato io, l'ho scelto, no, proprio mi prendo la responsabilità. Non ci sono più le mese stagioni, che io sostituirei con ci sono solo le stagioni, cioè ormai, no scusa, non ci sono più le stagioni, ormai sono tutte mezze stagioni, siamo, questa è una cosa molto italiana, diciamo, non abbiamo più le cose precise eccetera, ma abbiamo mezzo e mezzo. Comunque vi ringrazio moltissimo, vi saluto e vi abbraccio, la mia vignetta è questa, e quindi grazie tanti Giorgio. Auguri a tutti e ai nostri ascoltatori. È stato un piacere. Grazie Giorgio Forattini e Roberta Giordano, come sempre, vi augura sereni orizzonti a tutti.